Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Pessimisti e costretti a risparmiare su tutto. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questa, ahi noi, la fotografia scattata agli italiani dall'ultimo rapporto Nielsen sulla fiducia dei consumatori. Si tagliano soprattutto le spese per abbigliamento, ristoranti e cinema, ma si rinuncia anche a cose fino a poco tempo fa intoccabili. Ne parleremo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Ma è caccia all'affare non solo in Italia. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parleremo anche della guerra dei prezzi scoppiata in Inghilterra, focus sui trend, dedicato infine alla anni 30 mania, quando la crisi fa tendenza. Prima però ci sono le notizie e curiosità della settimana. Coopi, l'organizzazione umanitaria impegnata nella lotta alla povertà, ha aperto a Milano il suo primo charity shop. Nello store della solidarietà, sul modello dei famosi charity shop inglesi, è possibile acquistare sotto costo capi d'abbigliamento firmati, donati dalle grandi case di moda, artigianato etnico frutto dei progetti attivati nel sud del mondo e prodotti vintage. Cambia bandiera un altro storico marchio del Made in Italy. La multinazionale coreana LG Fashion Corporation ha acquisito Allegri, brand toscano di alta moda, specializzato nella produzione di capispalla. Da stilisti a editori, gli olandesi Victor & Rolf producono e illustrano la collana letteraria Fairy Tales, 12 favole che narrano le avventure di personaggi fantastici come il porco spino Disco e la viziatissima principessa Giselle. Barbie e Alitalia insieme per una nuova collezione in cui la bambola più famosa del mondo indossa le storiche divise delle hostess della compagnia di bandiera, firmate dal 1950 ad oggi da molti tra gli stilisti italiani più famosi, dalle sorelle Fontana a Mila Schön, da Renato Balestra a Giorgio Armani. La collezione sarà esposta da domani allo spazio Alitalia in Piazza di Spagna a Roma. Dai video tutorial sul web al lancio di una collezione di trucchi tutta sua. La famosa make-up artist Clio Zammatteo, 200.000 visualizzazioni in media sul canale YouTube Clio Makeup, firma per Pupa una linea di cosmetici. Anche i piccoli, aziende e clienti, festeggiano i 7 miliardi di abitanti sulla Terra. Toffo Lights ha deciso di regalare una lampada della linea per camerette ai primi 7 bambini nati il 31 ottobre. La borsa della spesa. Chi è quell'uomo che guida l'auto di Tom? Quell'uomo è Walter Brodsky, l'ha appena comprata. Ma Tom l'adora, perché mai dovrebbe venderla? Purtroppo non possiamo più permetterci le sue crisi di mezza età. La questione è questa. Ormai siamo al verde. Oh, Lynette. Tra tutte le spese legali per Porter e quel gran mortorio che chiamiamo ristorante. Io pensavo che il locale andasse bene. Quando i tempi sono duri, le persone fanno a meno della pizza e delle auto sportive. Questo mi dispiace molto, non ne avevo idea. Sta tranquilla, solo non parlarne in giro è un po' imbarazzante. Non devi sentirti in imbarazzo, l'economia va a rotoli, siamo tutti nella stessa barca. Le casalinghe disperate sono state le prime, seguite a ruota da molte altre serie TV in cui la crisi economica è entrata prepotentemente nelle sceneggiature. Stessa cosa sta facendo il cinema. È nata una stella, la crisi finanziaria, dicono i critici, che parlano addirittura della nascita di un genere. Sono film che raccontano non solo i grandi fatti di questa crisi, vedi, per citare un ultimo titolo, il fallimento della Lehman Brothers in Too Big to Fail, il crollo dei giganti, ma raccontano anche le abitudini di vita e di consumo che cambiano per la crisi. Un film che molti italiani purtroppo vedono proiettare in casa propria, almeno a giudicare dai risultati di un indicatore molto importante nel panorama dei consumi, il Global Consumer Confidence Index di Nielsen, termometro che misura online la fiducia dei consumatori. Parliamo di oltre 28.000 consumatori in 56 paesi del mondo, rilevandone le preoccupazioni e le intenzioni di spesa. Ebbene, in Italia per questo indice siamo ai minimi storici, 52 punti. Nel 2005, anno della prima rilevazione, eravamo a 88. Peggio di noi, 51, fa solo la Grecia, ma non sono felici nemmeno gli spagnoli, 56, pari merito con i francesi che arretrano di 13 punti. Due italiani su tre hanno dato un taglio al nuovo guardaroba, uno su due alle spese per il tempo libero fuori casa, dal cinema al ristorante. E tra i fumatori, pensate, qualche effetto positivo c'è, uno su sette ha scelto di comprare meno sigarette. Abbiamo parlato dei risultati di questa indagine con Romolo De Camillis, Retailers Director di Nielsen. Le principali preoccupazioni per gli italiani oggi sono l'economia e la sicurezza del posto di lavoro. Per le voci di spesa che si sono contratte di più nel dichiarato degli italiani emergono l'abbigliamento. 62% degli italiani dichiara di aver risparmiato su queste spese, la riduzione dei pasti fuori casa, quindi dei consumi fuori casa, l'intrattenimento fuori casa, ed è importante notare come anche in settori, diciamo, che rispondono a bisogni più essenziali come quelli alimentari, il 52% degli italiani ha deciso di acquistare prodotti più economici. Quindi si taglia sulle spese, ma si cerca anche l'affare per quelle che si devono fare. Si taglia sulle spese e, diciamo, si è attenti a sostituire prodotti più costosi con prodotti meno costosi o più convenienti perché in promozione. È importante notare come, diciamo, nell'ipotesi di un miglioramento dell'economia alcuni di questi comportamenti rimarranno tali, per altri invece c'è una propensione nei dichiarati sempre di voler ritornare a spendere, quindi se per esempio il voler risparmiare su gas e elettricità rimane un atteggiamento anche nell'ipotesi di ripresa dell'economia, c'è un desiderio invece di ritornare a spendere in abbigliamento, in pasti fuori casa e in intrattenimento fuori casa. Un altro dato che colpisce riguarda settori tradizionalmente meno attaccati di altri quando c'è da risparmiare, ad esempio la tecnologia di solito non risentiva dei minori budget, invece c'è un rallentamento. Sì, in particolare gli italiani erano sempre stati molto propensi ad spendere e investire in nuova tecnologia. Oggi il 30% degli italiani ha dichiarato di aver ridotto le spese per l'aggiornamento di articoli tecnologici, quindi personal computer, cellulari, ad esempio. Da notare anche per questa voce di spesa come sia bassissima la percentuale degli italiani che vuole continuare a fare questi sacrifici anche nel prossimo futuro, solo il 9%. A livello globale, diciamo, il terzo trimestre consecutivo di peggioramento del livello di fiducia, un europeo su 5 e un americano su 3 dichiara addirittura di non avere più denaro disponibile dopo aver effettuato le spese necessarie. Taglio alle spese dunque e caccia all'affare, ma è guerra dei prezzi non solo in Italia. Codice a barre di Luigi Rubinelli. In Gran Bretagna in settembre e ottobre si è scatenata una battaglia di prezzo senza precedenti. Tesco ha lanciato Price Drop, è un'application cui si accede dalla pagina di Tesco su Facebook, che permette ai consumatori di votare in un paniere di 3.000 store brand 5 item dei quali i votanti vorrebbero una riduzione dei prezzi. Le categorie di prodotto più votate entrano nell'offerta Price Drop e la riduzione di prezzo è segnalata sui lineari di vendita. Il risultato, dicono al quartier generale, è stato di un aumento di circa 1 milione di transazioni aggiuntive settimanali per i prodotti votati. Per rispondere a questa devastante azione commerciale, Sainsbury ha comparato contemporaneamente un suo carrello della spesa di 1.500 referenze con uno simile di Tesco e di Asda. Waitrose per 8 settimane ha comparato sui lineari di vendita 1.000 referenze sue con quelle di Tesco. Asda addirittura ha rinunciato ai prezzi terminali con 0,99 e ha lanciato i prezzi tondi. Insomma, la grande distribuzione inglese è entrata in una spirale paurosa di ribassi. Il consumatore apparentemente ne beneficia, ma il prezzo in questo modo non sarà mai più trasparente. Essere e avere. Fare quello che si dice, che sussurrano gli amici e che mormora la gente. non me ne importa niente, non me ne importa niente. Di nuovo in studio con Essere e Avere con le sorelle Marinetti. Introduciamo il focus sui trend di questa settimana. Facciamo un altro salto indietro nel tempo, perché non si ferma agli anni 50. La nostalgia, il gusto retro che fa tendenza, oggi ci spingiamo più in là. Parliamo di anni 30 mania. Quello che si dice, che sussurrano gli amici e che mormora la gente. Lo facciamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Dalla musica al cinema, passando per le serie TV e il teatro, gli anni 30 sono fonte di ispirazione anche per moda, design, architettura, videogiochi, fumetti e campagne pubblicitarie. Così il decennio delle grandi dive del cinema come Marlene Dietrich e Greta Garbo, decennio che iniziò con il fardello della Grande Depressione sulle spalle, torna di grande attualità, guarda caso nei mesi segnati dalla crisi che stiamo attraversando. Patrizia. Il passato continua a tornare, tornano uno alla volta le decadi che ispirano ricorsivamente un presente, diciamo, un po' strabico, cioè rivolto con un occhio al passato e uno al futuro. Questa volta parliamo di anni 30, meravigliosamente raccontati negli aspetti positivi e negativi nella acclamata miniserie televisiva in 5 puntate di un'ora ciascuna, Mildred Pierce, una serie diretta da Todd Haynes, tratta dal romanzo di Kane del 41 e che viene dal cinema. Infatti Michael Curtis nel 45 aveva girato nella versione italiana, il titolo era Il romanzo di Mildred. Questa miniserie ha aperto fuori programma il Festival di Venezia 2011 e secondo più di un critico è stato un esempio di TV meglio del cinema, forse addirittura un'incursione nel futuro del cinema stesso, che potrebbe come forma espressiva sempre di più farsi televisivo. Mildred, interpretata da Kate Winslet, la tipica casalinga che fa torte in casa ma che è anche una donna forte, combattiva, tanto da diventare un'imprenditrice dopo che il marito disoccupato la lascia. Poi c'è il tema dell'amore per le due figlie, la morte di una di loro, insomma un domestic drama cosiddetto, che ci appare attuale per una serie di temi quali povertà, disoccupazione, paura, uomini deboli, donne sole, eccetera, sogni proiettati sui figli che evocano anche oggi e anche con riferimento ai consumi dei precisi fantasmi. Miss anni 30 per Madonna, sempre a Venezia, vestita con un abito nero aderente a metà polpaccio, accollatissimo, con colletto stondato bianco e polsini bianchi. È un cult della moda, è l'abito princess che fa molto brava ragazza romantica, riproposto da molte maison. Naturalmente corretti e rivisti in chiave contemporanea, come si dice, sono gli anni 30 che diventano un ricco e succulente archivio a cui la moda attinge a man bassa. Da Ferretti a Yves Saint Laurent, Miu Miu, Céline, Dolce Gabbana, Ralph Lauren, che ha presentato una collezione ispirata interamente alla raffinatezza degli anni 30, con colori, forme, tessuti, scarpe, accessori, lavorazioni, dagli sbiechi agli orli a godè, acconciature, tutte a tema. Da segnalare la linea di occhiali da vista di metallo e acetato da aviatore ispirati agli anni 30, creata da Oliver Peoples, noto brand americano, insieme al designer giapponese Takahiro Miyashita, venduti da Colette. Spirito vintage, creatività e naturalmente ricerca spinta sui materiali. Gli anni 30 sono il momento, come ricordavi, di grandi donne, stiliste come Coco Chanel, cominciano la loro ascesa, e le grandi dive del cinema, Joan Crawford, Greta Garbo, Marlene Dietrich, appunto Ginger Rogers, ma anche di figure femminili come Charlotte Perriand, fotografa e designer di quegli anni, è stata la prima a usare la fotografia come elemento d'arredo nelle architetture di interni. Una mostra da poco conclusasi a Parigi col sostegno di Cassina ne ha celebrato l'attività. 400 scatti e 70 mobili, intitolata Dalla fotografia al design. E negli anni 30, in una cittadina dell'Italia centrale immersa nella campagna, è ambientato l'ultimo film di uno dei grandi maestri del nostro cinema, Pupi Avati, Il cuore grande delle ragazze. Questa è la storia di quando le ragazze aspettavano il biancospino per andarsi a sposare. Ma c'hai fiato e c'hai? È biancospino, naturale. Pure meglio. Quelle spose, quel giorno, avevano tutte un cuore grande. Perché devo conciarmi così per andare a fare la corte a due cessi? Oh, queste sono ragazze da leccasse i diti. Mica il soccolo è tua. Sei mai stato seduto tra due ragazze? Al catechismo. Quell'altro però voleva molto meno. Sì, ma gli mancava un braccio con tutta la spalla. E questo c'è tutto? Crede più. Pare che le donne di qua solo litigano. Hai sentito? È Bianco Spino, naturale. Ah, nì, questo è il fidanzato delle sorelle tue. Di tutte e due? Ho conosciuto la nostra sorellina romana. Sì. Mi piace. Molto. Dov'è quel pezzo di merda? Sparisci, vai via! Ma fa senti ancora. Cosa ti devo dire? Parla ancora, parla. Se viene fuori che va ancora donna, salta tutto. Allora bisogna fare presto. Prima si sposano, meglio è. Ma te hai capito cosa vuol dire sposarsi? Sì. Ti vado bene come moglie? Per forza, se ci sposiamo. Che vuol dire per forza? Allora! Cosa succede? Il prete ha chiuso la chiesa. Come non c'è il prete? Sarà mica che non mi sposo. Io oggi devo assolutamente fare l'amore. Che stai a guardare? Mi piace. E cosa ci fai qua? La cameriera. Ma dai. E tu? Io faccio un viaggio di nozze. Carlè? Carlè, dove stai? C'è voglia di giocare? Patrizia, abbiamo parlato di serie TV e di cinema, ma gli anni 30 affascinano anche prodotti culturali più insospettabili. Ritroviamo gli anni 30 nel fumetto, per esempio, di recente uscita Underground, l'opera di due fumettisti belgi impronunciabili e quindi non ci provo, ambientata negli anni della Grande Depressione, evidente metafora della crisi finanziaria anche di questi nostri ultimi anni. E poi li ritroviamo nel mondo dei videogiochi, l'estetica anni 30, ancorché stereotipata, si forma e si sedimenta anche intorno al mondo immaginario della mafia americana. Ed è questo mondo e questo stile preciso, derivato principalmente dal cinema, che viene riprodotto nel nuovo videogioco Gangster Takedown. C'è la New York di quegli anni, chi gioca fa ruoli da poliziotto con obiettivo anticriminalità mafiosa, vanno distrutte sostanzialmente le automobili di proprietà dei capi clan. Rimaniamo nel panorama ludico, ma passiamo ai giochi da tavolo. È infatti nel 1936 che viene lanciato in Italia un gioco già molto conosciuto negli Stati Uniti, è Monopoly della editrice Giochi, che ha voluto tributare un omaggio quest'anno all'epoca fondativa della sua storia di grandi successi, celebrandone il 75esimo compleanno con un nuovo board game, un nuovo gioco da tavola, si chiama Metropoli. È ispirato alla New York anni 30, di nuovo metafora delle metropoli moderne, sia nel concept che nella grafica. Abbiamo la plancia e tutti gli elementi della confezione che si distinguono per lo stile ispirato all'art déco della decade. Torna in mente Mildred Pierce, di nuovo come imprenditrice e self-made woman, leggendo Lei e le altre, libro e omonima mostra recentemente chiusa a cura di Maria Luisa Frisa, curatrice e autrice dell'omonimo libro edito da Marsilio. Un percorso dagli anni 30 a oggi attraverso i periodici femminili e di attualità di RCS. Interessante la sezione sugli anni 30 da cui emerge il catalogo della segretaria perfetta, per esempio, che, come dice la stessa Frisa in un'intervista, era una delle poche professioni a cui le donne avevano accesso negli anni 30. Sono quattro le macro aree tematiche: moda, stile, femminismo, femminismi, casa, design, attualità e costume. Sono immagini che fanno la storia, ad esempio anche tra i diversi canoni di bellezza sempre al femminile negli anni 30 e negli anni 2000. Sempre in ambito costume e società, altro segno ponte con gli anni 30, il dilagare anche e soprattutto tra i giovani del tango. Segnaliamo la nightlife di Helsinki, come ormai la gran parte delle città del mondo ha un'anima tanghera, con milonga in cui si balla il tango finlandese, però quindi una variazione del ballo argentino nata negli anni 30 e fortemente radicata, anche se con una tonalità più introversa e poetica e meno passionale di quella argentina. Ma questa non sarebbe in sé una notizia, quanto invece il fatto che brani di tango si alternino a qualsiasi altro genere di musica in qualsiasi locale e che soprattutto i giovani ballino con la stessa nonchalance questi repertori d'epoca insieme agli altri generi. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a New York su questa anni 30 mania? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Boardwalk Empire è la serie televisiva statunitense trasmessa dal canale via cavo HBO, ambientata a Atlantic City, a cavallo tra gli anni 20 e 30, in pieno proibizionismo. La storia infatti ruota intorno alle attività criminali del protagonista, un noto politico della città, interpretato da Steve Buscemi. La puntata pilota, andata in onda lo scorso anno, è stata girata da Martin Scorsese, che è anche uno dei produttori della serie, ottenendo un successo tale, dopo un solo episodio, da far decidere appunto alla produzione produzione di rinnovarla per un'altra stagione. E proprio in occasione del lancio della seconda stagione lo scorso settembre, la metropolitana di New York è stata teatro di una campagna di comunicazione decisamente non convenzionale. Per 4 settimane, ogni weekend, un treno vintage originale degli anni in cui è ambientata la serie, un treno entrato in servizio nel 1917, ha fatto la spolla lungo le linee 2 e 3 tra le stazioni della 96esima, 72esima, 42esima strada e Times Square. I passeggeri che hanno avuto l'opportunità di sperimentarlo sono stati letteralmente trasportati indietro nel tempo, all'interno di vagoni in legno tirato a lucido, dai sedili di rattan, con i lampadari al soffitto e i tipici finestrini con l'apertura ghigliottina, nonché locandine alle pareti che nella grafica d'epoca pubblicizzavano la serie. Grazie Alessia. Patrizia, crisi ed eleganza, ricercatezza, negli anni 30 ritroviamo tutte le contraddizioni dei nostri giorni. Sì, gli anni 30 aleggiano oggi nei molti richiami insistiti, da un lato all'unico vero precedente moderno delle angosce, tra virgolette, che stanno prendendo la nostra società contemporanea, cioè la crisi economica del 29 a Wall Street, ma anche da un punto di vista, diciamo, più positivo, quindi alla reazione degli americani a quella crisi, cioè l'idea di uscirne faticosamente ma con un sogno. E dunque anche oggi questo sogno va costruito, e anche il mondo dei consumi e gli stessi consumatori possono contribuire alla sua costruzione. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it, sezione podcast, potrete riascoltare e scaricare questa come le altre puntate, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.